reportage. Immigrazione ed economia. I fattori che decideranno il destino di Londra nell'Unione Europea. Di Sergio Nava. Buongiorno da Londra, ci troviamo qui a Westminster, cuore parlamentare, cuore politico della capitale inglese e dell'intero paese. L'Inghilterra allora ha votato, ha deciso, i conservatori di David Cameron hanno trionfato alle ultime elezioni politiche e a qualche settimana di distanza oggi vi raccontiamo quali saranno le conseguenze di questa vittoria sulle relazioni con l'Europa e soprattutto verso alcuni gruppi di interesse, quali possono essere le banche, la finanza, gli immigrati e quindi come i prossimi 5 anni ridefiniranno le relazioni tra Europa e Gran Bretagna. Per cominciare però partiamo con un'analisi sul futuro delle relazioni tra Unione Europea e Gran Bretagna. Per farlo ci spostiamo di pochi passi. A 5 minuti a piedi da Westminster si trova la sede di Open Europe, think tank nato solo 10 anni fa. Open Europe ha un atteggiamento eurocritico verso Bruxelles. Anche per questo è utile ascoltare il punto di vista che ci fornisce l'analista politico Vincenzo Scarpetta, partendo da uno dei temi più spinosi nei rapporti Londra-Bruxelles, quello relativo a immigrazione e libertà di circolazione in Europa. Esiste, gli chiediamo, un possibile punto di incontro tra isola e continente? Credo che il terreno di incontro potrebbe essere su una revisione delle regole per quanto riguarda appunto l'accesso al welfare degli immigrati, perché è chiaro il principio stesso di libertà di circolazione è una linea rossa per praticamente direi per tutti i paesi dell'Unione, tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, e non credo che neppure lo stesso David Cameron voglia mettere in discussione il principio di libertà di circolazione, perché è un principio dal quale beneficia anche lo stesso Regno Unito, quindi non è il principio che è in discussione, è una questione che riguarda piuttosto il funzionamento delle regole e quello che è poi l'accesso al welfare di questi immigrati, in modo da arrivare a una riforma che possa anche ristabilire quella che è la fiducia dell'opinione pubblica britannica. Voi avete fatto un rapporto, avete fatto uno studio sui costi, se in sintesi ce li puoi un po' riassumere, l'impatto che avrebbe una Brexit a livello economico. Dipende dagli scenari, ci sono 4 scenari diversi. Diciamo che nel caso limite, quindi di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza alcun tipo di accordo commerciale, si arriverebbe a perdere intorno al 2% del PIL nel 2030. Gli scenari politicamente più realistici mostrano che la differenza è più limitata, al di sotto dell'1% del PIL nel 2030. Vincenzo Scarpetta ha chiaramente delineato i 2 assi sui quali concentreremo il nostro Euro-reportage oggi, immigrazione ed economia. Per affrontare il primo ci spostiamo fino a Clerkenwell Road, area di Farringdon, immediatamente al di fuori del centro di Londra. La cosa è che essere attenti, a volte o potrebbe trovare una situazione... Qui da 9 mesi un gruppo di ragazzi italiani, tutti volontari, ha lanciato l'iniziativa Benvenuto a Bordo. Ogni settimana incontrano i giovani connazionali appena approdati oltre Manica alla ricerca di un lavoro all'interno dei locali della Chiesa Italiana di St. Peter e forniscono loro informazioni utili su come trovare casa e impiego nella capitale britannica. Un vantaggio, quello della libertà di circolazione in Europa, che il governo Cameron sta quantomeno parzialmente rimettendo in discussione. A Francesco Di Rosario, tra i fondatori di Benvenuto a Bordo, chiediamo un parere. Personalmente, vivendo qui da 7 anni, posso dire che capisco il loro ragionamento. Non voglio dire che do ragione a loro, però capisco che il problema non è l'immigrazione, ma sono anche le leggi in Inghilterra che in qualche modo, essendo state fatte in altri momenti e in altri periodi, anche da un punto di vista dell'immigrazione, ora in qualche modo stanno facendo scoppiare il sistema. In estrema sintesi, chi arriva qui a cosa ha diritto in quanto cittadino europeo? Essendo cittadino europeo non ha bisogno di un visa per lavorare o per stare qui, può stare quanto tempo vuole. Qui in Inghilterra si diventa residenti per l'Inghilterra anche dopo un mese, appena arrivano delle lettere a casa. Poi dopo che si è lavorato qui per credo almeno 3 mesi, si può avere diritto a tutta una serie di benefit che sono la housing allowance oppure la job seeker allowance. Quanto vedi, diciamo, gli italiani che arrivano qui in Gran Bretagna informati su questo dibattito che c'è in corso nella società britannica sul limitare o l'immigrazione o limitare i sussidi e i benefit che l'immigrazione dà? Io penso che molte persone che arrivano qui, giovani, adulti, non sanno nulla. E allora andiamo subito a fare una rapida verifica insieme agli italiani venuti a partecipare ad una delle serate di Benvenuto a Bordo. Quanto sono coscienti del dibattito in corso in Gran Bretagna relativamente alla libertà di circolazione in Europa? Pasquale, napoletano di 50 anni, è un elettricista, lavora a Londra da 8 mesi. Sono informato poco, ma per quello che si riesce a sapere in giro è che ci sta un politico che vuole togliere questi benefit, ma solo a chi appena arriva, ma chi è già stato qui da un mese o due, che ha già iniziato a lavorare, ha iniziato a versare i suoi contributi, può rimanere ancora con i benefit. Questo è uno dei politici che io conosco, poi gli altri non... Cosa ne pensi? Penso che sia una cosa giusta evitare i benefit per tutti, ma se ci sono ben vengano, comunque ci aiutano molto a rimanere qui in Inghilterra. Domenico, 31 anni, abruzzese, è a Londra da solo 3 mesi. Lavora temporaneamente in una catena di fast food, in attesa di trovare un impiego nel suo settore di specializzazione, tecnico radiologo. Prima di partire non sapevo nulla a riguardo, tuttora non sono molto informato, però ho cominciato a sentire, a leggere qualcosina su internet sul tema riguardo mettere un limite all'erogazione di questi benefit. E io non sono venuto per questo sicuramente qui per questo, e quindi non mi sono informato prima di partire. Penso che sia anche giusto mettere un limite a questi benefit, perché quello che ho notato, c'è una forte immigrazione qui e molte persone, tra virgolette, forse vogliono anche un po' approfittare. Questo potrebbe, secondo te, arrivare anche a intaccare la libera circolazione? No, in quel caso non sarei assolutamente d'accordo, tant'è vero che io ho avuto la possibilità di venire qui molto facilmente, essendo Inghilterra paese membro dell'Unione Europea. This is the last time, but I will say these words. Dal tema immigrazione e libertà di circolazione in Europa a quello della finanza, un eventuale Brexit o una ridefinizione dei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea nel prossimo biennio andrebbero potenzialmente a intaccare un altro settore, quello della City, su cui Londra prospera. Perché qui a far paura è soprattutto l'ipotesi di un'uscita dall'Unione. Ci trasferiamo dunque alla City of London, un municipio molto particolare che, più che occuparsi delle necessità dei suoi pochi 9.000 residenti, su un territorio di circa 1 miglio quadrato, si dedica alle necessità delle numerose imprese e corporation finanziarie che di giorno portano la popolazione della zona a ben 400.000 persone, tutti dipendenti della City. Mark Bolliat è presidente del comitato politiche e risorse alla City of London. La visione della City è che la Gran Bretagna debba restare nell'Unione Europea, ci dice Bolliat. Se la lasciasse avremmo un impatto negativo. Non sarebbe probabilmente un disastro totale, molto dipenderebbe dai termini con cui negozieremmo questa Brexit e dalle future relazioni con Bruxelles, ma resta il fatto che il mondo del business vuole che Londra rimanga in Europa. Aggiungo che l'industria del business e finanziaria non è impaurita dall'ipotesi di una Brexit. Il business ne riconosce il rischio, ma lo quantifica come basso, e in ogni caso, se si verificasse questa possibilità, la finanza è già pronta a considerare ipotesi alternative. La sensazione del mondo finanziario comunque è che la Gran Bretagna resterà in Europa. Diciamo che al momento si limita a tenere conto del rischio, conclude Bolliat. E chiedo a Mark Bolliat se la City sia d'accordo con la necessità di un'Europa riformata, come chiede David Cameron. C'è un chiaro consenso sul fatto che l'Europa non funzioni come dovrebbe, un tema che la Commissione Europea ha già preso in considerazione. Sì, la gente vuole vedere un'Europa più efficiente, e come Gran Bretagna vogliamo che sia un'Europa aperta al mondo, che guardi all'esterno. Serve una relazione più costruttiva tra Europa e Gran Bretagna, sono convinto che la vedremo nei prossimi anni. Bolliat esclude un ingresso di Londra nell'Eurozona finché la zona euro non si sarà stabilizzata, quindi non prima di molti anni, e ammette che l'industria finanziaria sarebbe quella più colpita nell'ipotesi di una Brexit. C'è anche chi, all'interno del mondo del business britannico, ha un approccio ben più critico verso l'Europa. Nei pressi di Westminster hanno sede gli uffici di Business for Britain, campagna che chiede cambiamenti radicali nei termini di appartenenza di Londra all'Europa. Il manifesto di questa organizzazione è stato sottoscritto da oltre 1.000 imprenditori, per la maggior parte a capo delle PMI britanniche, le più colpite dalle norme europee in termini di impatto di spesa. Incontriamo Robert Oxley, direttore della campagna favorevole all'ipotesi di un referendum sull'Europa, così come promesso da David Cameron. Noi pensiamo che l'Unione Europea non funzioni come dovrebbe, dice Oxley. Molti dei firmatari ritengono che l'Europa di oggi non sia più quella in cui siamo entrati. I nostri firmatari vogliono un'Europa più centrata su rapporti economici e commerciali, con un legame più libero. Non vogliono un'unione politica, né sostengono ovviamente l'ingresso nell'euro. L'Europa deve fare passi indietro. Il Parlamento Europeo, per esempio, ha la tendenza prima a regolare, poi a pensare a ciò che ha fatto. Noi apparteniamo a un'economia liberale di mercato che si concentra su commercio e deregolamentazione. Sareste pronti a pagare il prezzo di un'uscita dall'Unione Europea qualora le vostre richieste non venissero prese in considerazione? Chiedo a bruciapelo a Robert Oxley. Penso che occorra assolutamente essere pronti a tentare tutte le opzioni. Ci deve essere un negoziato, ci deve essere una discussione sul futuro dell'Europa, una discussione sul posto della Gran Bretagna in Europa. Se non riuscissimo a far valere le nostre istanze, beh, noi sosteniamo che sia stupido escludere l'opzione di un'uscita dall'Unione Europea. We would argue it'd be stupid to rule out the options outside of it. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.